stanotte questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna e tu sulla laguna, l'amore ci avvincerà. Un sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda più. Ci avvincerà, from sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda.